Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. In realtà oggi ripercorreremo i temi di questa settimana economico-finanziaria che, contrariamente a quanto alcuni potessero attendersi, è stata tutt'altro che tranquilla. Vorrei ricordare, sembra passato del tempo, ma che solo lunedì scorso abbiamo iniziato, diciamo, la settimana con crolli a catena delle borse, poi recuperi parziali a partire da mercoledì delle borse europee e l'altro ieri soprattutto quello delle borse asiatiche. Abbiamo detto, come ha scritto anche il Sole 24 Ore martedì in un doppio editoriale, attenzione, sarebbe sbagliato ritenere che quello a cui abbiamo assistito sia solo, diciamo, la panna montata della speculazione finanziaria e una crisi di carattere borsistico finanziario nei risparmiatori. Il tema vero è la tenuta della crescita dell'economia cinese e quindi chiaro anche le ripercussioni che questi crolli di borsa e dei valori di alcuni titoli azionari avranno sui 90 milioni di risparmiatori cinesi che hanno investito in borsa, ma soprattutto la capacità della Cina, come respiro un po' più ampio, di andare avanti in questo processo di trasformazione da economia produttrice, da grande manifattura, da grande fabbrica del mondo, a economia anche fatta di consumi, e quindi ragionamento sulla classe media che abbiamo fatto. Ricordo che abbiamo avuto ospiti prima lunedì tutti i colleghi che stavano seguendo la cronaca giorno per giorno, ora per ora sui mercati, poi politici ed economisti per quello che riguarda lo scenario di medio periodo, operatore nel mercato dei capitali. Oggi andremo in Cina, nel senso che ci faremo raccontare da chi lavora in Cina, se tutta il racconto, delle volte anche un po' così colorito, che leggiamo su alcuni giornali italiani corrisponde alla verità. Cioè, non vorrei che passasse l'immagine che adesso la Cina è ferma, è in difficoltà. Un conto è dire che non cresce del 7%, un conto è dire che non cresce, perché la crescita sarà del 5%. Fermo restando che tutti abbiamo capito che c'è una lotta in corso all'interno, diciamo, del potere cinese, tra chi vorrebbe mantenere il vecchio modello, quello più di grande manifattura esportatrice e con un aumento del PIL intorno al 7%, e chi invece dice no, attenzione, non possiamo reggere in questo modo, occorre trasformare la Cina anche in un mercato di consumo e quindi cambiare la pelle, diciamo, del modello produttivo cinese. Di questo parleremo anche, sempre nella logica di fare anche il punto di una settimana che doveva essere estiva ma non lo è stata, di quello che è successo in Italia, e mi riferisco soprattutto all'annuncio del Premier Matteo Renzi che nel 2016 verrà ridotta IMU e TASI. Ne abbiamo parlato come Conti, ma è chiaro che poi questo ha innescato tutto un insieme di ragionamenti sulla capacità di copertura. È intervenuto anche il ministro Padoan. Riascolteremo anche sia l'annuncio di Renzi che quanto detto poi da Padoan. L'occasione è stata per Renzi sia l'assemblea di Federlegno Arredo a Pesaro che poi il meeting di Rimini, per il ministro Padoan il meeting di CL a Rimini, e i ragionamenti che si fanno sulla tenuta della manovra. Non parleremo di Grecia perché, al di là della conferma di oggi che le elezioni si terranno il 20 settembre, per fortuna la Grecia ha rappresentato poche notizie oggi. Per quello che riguarda la borsa, diamo subito un aggiornamento: meno 1% oggi Milano, Parigi invariata, Francoforte meno 0,50%, l'America meno 0,20%, Londra più 0,20%. Non ci sono motivi particolari, diciamo, uno potrebbe dire venerdì, ci sono molte prese di beneficio su alcuni titoli, va bene Saipem ancora più 3,80%, Tenaris più 2,20%, il petrolio è risalito oggi, altro tema della settimana, non è che ci sfugga, il petrolio che era sceso sotto i 40, i 38 dollari al barile, poi ha recuperato, adesso siamo oggi un altro strappino, chiamiamolo così, a 44 dollari al barile, in rialzo del 3,5%, infatti va bene Saipem più 3,90, Tenaris più 2,20, Eni più 0,70. Presi di beneficio, sì, ma anche insomma, qualche ragionamento su Salvatore Ferragamo, meno 5,70%. Sappiamo che le tensioni più forti di queste preoccupazioni sulla Cina si sono avute soprattutto sui titoli del lusso, quelli che hanno Ferragamo, se non ricordo male, il 30%, si va dal 30% di Ferragamo fino al 9% di Cucinelli come fatturato sviluppato in Cina. E quindi Ferragamo meno 5,70 dopo aver recuperato comunque nelle ultime sedute, visto che parlavo del lusso, Moncler meno 2,1, Tod's meno 2%, tra chi cede Popolare Emilia Romagna il 3,12%, Azimut il 2,60, Banco Popolare meno 2,40, Intesa San Paolo meno 2, e poi tra i non bancari Telecom Italia meno 2,5 come Autogrill. L'euro è di nuovo a quota 1,12, anche qui insomma siamo tornati ai livelli, diciamo, per dare un'immagine, di una settimana fa, dopo che era risalito fino a quota 1,14, 1,15 lunedì. Ma devo dire che l'euro e lo spread sono state le notizie più insignificanti nella turbolenza, diciamo, di carattere finanziario ed economico di questa settimana. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, poi c'è la pagina, come sempre, di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Sì, fa notare un ascoltatore che c'è anche come tratto della settimana la gaffe, lo scivolone del Ministero del Lavoro sui dati, l'abbiamo raccontato a lungo, i dati su quanti nuovi contratti a tempo indeterminato siano stati fatti da inizio anno, la cifra, il saldo tra quelli chiusi, quelli attivati, il saldo era positivo per 670.000, poi il Ministero si è corretto il giorno dopo, erano la metà. Da qui, diciamo, al di là delle polemiche e del fatto che i nuovi contratti di luglio siano solo 47, le altre sono trasformazioni di contratti esistenti. 47, morto che parla, non me lo scrivete però ogni volta, l'abbiamo fatta già la battuta, però il punto vero è quanto si chiede da tempo, è brutto citarsi, ma il Sole 24 Ore lo fece in tempi non sospetti con un editoriale di Luca Ricolfi, chiedendo per favore che arrivasse un'unica fonte, un unico momento, un unico appuntamento con i dati sul lavoro. Fummo facili profeti, perché quando tu hai INPS, Istat e Ministero del Lavoro, la confusione regna sovrana. Comunque, le altre notizie in breve, dicevamo. Allora, l'economia americana, beh, festeggia, nel senso che il dato di ieri, di una crescita del PIL nettamente superiore alle attese, sopra il 3%, dovuto a consumi interni, alle famiglie americane che spendono di più, alla disoccupazione ai minimi e alle imprese che investono, è il migliore dei mondi possibili, infatti si chiama America e non Europa in questo caso. Secondo molti osservatori, dopo il dato di ieri e nonostante i mercati finanziari restino volatili, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, a questo punto ha maggiori elementi per andare avanti nella sua politica di graduale, lentissimo, straannunciato aumento dei tassi di interesse. Perché, insomma, questa mattina mi chiedete delle borse asiatiche, avete ragione, non le ho dette. Shanghai ha chiuso in rialzo del 4,80%. A spingere il mercato e soprattutto l'ottimismo perché che partano investimenti dei fondi pensione dopo che il vice ministro delle finanze di Pechino, lui si chiama Yu Wenping, ha annunciato che partirà il prima possibile. Dopodiché Moody's invece ha un po' gelato tutti oggi, tagliando. Moody's è una delle agenzie di rating, quelle che danno i voti a stati sovrani, a emittenti privati, ha tagliato le stime sulla crescita del G20 nel 2016 dal 3,1% al 2,8%. Pesa soprattutto il rallentamento della Cina, ma in particolare il fatto che la Cina, crescendo di meno, comprerà meno materie prime e quindi farà rallentare il PIL di tutti quei paesi emergenti che vedono nella Cina il primo mercato di sbocco. Citiamo sempre il Cile con il rame, il Brasile con le materie prime, moltissimi paesi africani. E quindi non c'è solo il rallentamento cinese, c'è, potremmo dire, tutto l'indotto che questo comporta. Purtroppo la brutta notizia di oggi riguarda il Brasile. I dati confermano che il Brasile, ve li ricordate i BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica? Insomma, la Russia è fuori dai giochi da quando ci sono gli embargo, da quando ci sono le sanzioni, le controsanzioni per la vicenda ucraina. La Cina rallenta e il Brasile è entrato in recessione. Nel senso che il PIL del Brasile è calato dell'1,9% tra aprile e giugno, ha fatto meno 0,7 nei primi tre mesi e due trimestri di calo segnalano la recessione. È una recessione tecnica, fanno notare gli analisti, per cui cercano di mitigare, ma insomma il dato c'è tutto. Chi invece vedrà un PIL in crescita nel secondo trimestre è la Grecia. Attenzione, qui c'è anche un effetto rimbalzo, cioè si erano talmente compressi e ridotti a zero i consumi e gli investimenti in Grecia quando non si sapeva se la Grecia sarebbe o no rimasta, diciamo, nell'euro, che contro lo 0,1% del primo trimestre, il secondo trimestre dell'anno farà in Grecia un più 0,8%. Andiamo all'Italia. L'Italia, l'Istat vede risalire la fiducia dei consumatori ad agosto, un lieve calo per le imprese, ma faccio notare che l'indice di fiducia delle imprese a 103,7 punti è comunque ai massimi da due anni e anche quello dei consumatori a 109 punti contro 106 punti del mese precedente risulta ai massimi da due anni a questa parte. Ma la Confcommercio fa notare che oramai in 20 anni le spese obbligate delle famiglie, quindi quelle non comprimibili, sono passate dal 36,6% del totale di 20 anni fa al 42%. Questo soprattutto per le spese per la casa, più 110% in 20 anni. E quindi anche la tassazione sulla casa, ci mancherebbe, che è arrivata ad assorbire un quarto di tutti i consumi. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il quantitative easing chiesto dal Sole 24 Ore per firma dello stesso direttore Roberto Napoletano, cos'è il QI cinese, ci chiedono alcuni. Beh, è l'appello a fare quello che ha fatto l'America per prima e in maniera più virtuosa, cioè stampare moneta, creare liquidità per sostenere l'economia, quello che ha fatto tardivamente e solo grazie alla caparbietà di Mario Draghi l'Europa, l'area euro, l'ha fatto l'anno scorso, diciamo, è appena partito qui, quest'anno l'ha fatto, diciamo, le primi interventi sono anche del 2014, ma come QI vero e proprio, come stampaggio di moneta, lo diciamo per far capire a tutti, è di quest'anno. L'idea è che la Cina appunto capisca che quella è la soluzione per tenere in piedi consumi e ciclo economico e non pensi di ritornare indietro pensando di potersi giocare tutta la crescita futura solo con le esportazioni. Ricordo anche quanto è emerso in queste settimane, cioè che la lezione cinese vale anche per l'Europa, e c'è un'Europa che pensa di poter guidare e basare la sua crescita, Germania in primis, sull'export, poi rischia di vedere compromesso tutto dall'andamento del ciclo economico internazionale. Devono ripartire gli investimenti dei privati e gli investimenti pubblici, e poi questo porterà a un aumento dell'occupazione e a ripartire anche dei consumi. Comunque, restiamo sul tema cinese, cerchiamo, dopo i vari esperti e ospiti che abbiamo avuto, di raccontare la Cina da chi ci lavora e da chi la vive al suo interno. Allora, non ho capito il messaggio dell'ascoltatore che dice che mi sento un po' giù. No, non, forse la voce è un po' rauca, non lo so, c'è un'aria condizionata devastante. Ma no, non siamo assolutamente giù, stiamo cercando di fare il punto, visto che poi ufficialmente la prossima settimana intanto il palinsesto torna di Radio 24 al livello normale, quindi anche Focus Economia terminerà alle 18.30, ma ufficialmente tutta l'attività economica dovrebbe ripartire, in realtà non si è mai fermata. Allora è anche l'occasione per fare il punto. Dunque, Saro Capozzoli, qualcuno se lo ricorda? Sì, immagino, era ospite spesso di Radio 24, il tecnico mi guarda strano. Quando c'era un programma che si chiamava Jefferson Ming, ci occupavamo dei due modelli cinese e americano, ha fondato molti anni fa, quasi 20 anni fa, in Cina la Yesa Investment Holding, aiuta le aziende italiane a internazionalizzare, a fare acquisizioni, sviluppare impianti produttivi per il mercato cinese, e appunto è da 20 anni che fa questo lavoro. Noi lo usiamo un po' come un nostro indice. Buonasera Capozzoli. Sì, buonasera. Ecco, anche buonanotte, non so, non oso pensare in che ore, ma lei non dorme mai, come mai un cinese da questo punto di vista. Senta, lei ci ha scritto molto, quando ci siamo sentiti, era molto arrabbiato per il ritratto che alcuni giornali italiani danno della situazione del vivere quotidiano cinese. Cioè, nessuno può contestare i dati aggregati e quello che è successo è una crescita che non sarà quella prevista, e ci sono anche dubbi sull'attendibilità di dati economici diffusi da Pechino, perché insomma lì non è che proprio il governo, la politica e il partito unico non abbiano un peso. Molti osservatori esterni dicono che il 7% è solo di forma, che non si crescerà più del 5%, ma insomma la preoccupazione o il risveglio, l'aver capito che l'economia di mercato finanziaria prevede anche crolli di borsa e bolle speculative in borsa, ha reso veramente così rabbiosi i risparmiatori cinesi? Beh, qui bisogna, è una domanda molto complessa. No, quello che qui ha sorpreso e ha dato anche molto fastidio sulle stampe, per quanto riguarda la stampa italiana, specialmente alcuni giornali, e che si è parlato addirittura di code al bancomat, militari a grattacieli, tumulti a Hong Kong, cioè cose pazzesche, e qui assolutamente, qui la mattina, ieri o l'altro ieri, quando abbiamo visto questo articolo su Repubblica, ci siamo guardati negli occhi e detto: ma cosa stanno dicendo? No? Cioè, sembrava un mondo impazzito, perché la Cina stiamo passando un momento particolare, io lo chiamo di trasformazione, ma di questo tipo di reazioni non ci sono assolutamente. Adesso io per correttezza, insomma, dico, lei dovrebbe queste cose poi dirle anche al corrispondente di Repubblica da Pechino, sì, da Shanghai, perché sennò diventa, cioè, scrivetevi su questo e parlate. Però mi interessa la sua testimonianza, perché poi lei quante imprese ha nel suo portafoglio che sta assistendo, gestendo e in questo momento aiutando, perché poi operando in diversi settori, dalla meccanica, sì, all'alimentare. Poi il polso, diciamo, lei ce l'ha molto empirico. Prego, Capozzi. Noi abbiamo portato qui più di 600 aziende. 600? 600 aziende, non solo italiane. Diciamo, certo. Più della metà sono tra tedesche, austriache, anche svizzere, a entrare in questo mercato e a svilupparsi. E sono orgoglioso di dire che non abbiamo mai chiuso, o mai fatto chiudere un'azienda in Italia, ma le abbiamo anzi aiutate, o in Italia o in Europa, ma a espandersi in questo mercato. Ecco, ci sono le aziende e i loro fatturati, lasci stare l'export, perché questo, ma sul mercato interno segnalano delle difficoltà, dei rallentamenti? Allora, andiamo a vedere i dati. I dati. La Cina a luglio ha registrato un incremento, cioè un tasso di crescita del commercio interno del 10%. È sceso dall'anno scorso dall'11 al 10, questo è quello che è successo. Se vediamo i dati degli Stati Uniti, siamo al 2%, l'Italia siamo allo 0,3%, cioè qui c'è un mercato interno che il governo dal 2008 che sta cercando di spingerlo con incentivi, con lo sviluppo di tante nuove tecnologie, ad esempio l'internet, qui sta l'e-commerce sta andando molto più velocemente dello sviluppo del commercio tradizionale. E quindi c'è un mercato interno che richiede prodotti, nuovi prodotti, si sta sofisticando, e chi è presente qui e produce per il mercato qui si sta sviluppando. Ci sono aziende che si sono salvate in Italia grazie alla presenza locale, anche perché mi permette di dire, se io devo vendere qui delle mozzarelle e devo vendere a un pubblico molto più vasto, no, delle elite che può pagare una mozzarella 15 euro l'una, devo essere qui presente a produrre. No, ma questo l'abbiamo raccontato molte volte, sì. Cioè, come in realtà quando tu non delocalizzi ma internazionalizzi, hai avuto anche la possibilità, molte imprese, anche italiane, di mantenere i fatturati complessivi grazie alla crescita di quelli che, per esempio, del mercato cinese. Qui stiamo parlando di produrre per il mercato cinese, non di produrre in Cina per il mercato europeo, sono due cose molto diverse. Però, Capozzi, non è che possiamo negare che non ci sia un problema di un'economia, non dico in panne, ma un po' in questo momento ingrippata, sì. O lo vediamo solo noi? Stavo dicendo all'inizio, questo è un momento di transizione in cui c'è un governo che ha deciso di non intervenire più nell'economia come è stato fatto finora. Un governo che sta sotto pressione la vecchia casta politica che è sotto inchiesta. Ci sono tensioni interne qui che non sono solo tensioni fra chi vuole che mantenere il processo, il progetto, cioè di andare a esportare, o chi vuole sviluppare il mercato interno. Qui c'è qualcosa di molto più sottile. Hanno messo in galera 40 generali, fra pochi giorni ci sarà una grande marcia, c'è una grande pulizia interna che sta dando molto fastidio e questo crea dell'instabilità. E io lo vedo come, sono qui da 25 anni, ho visto poche volte uno spartiacque, lo chiamo quasi entropico, uno spartiacque in cui ci sarà una nuova fase, in cui ci sarà che il governo è costretto a passare, perché sennò avrebbe rischiato la protesta, le rivolte contro la corruzione dilagante che c'è stata finora in questo paese. Senta una cosa, però mi dica come curiosità giornalistica, ma il fatto che non sia più così sano o prudente girare e mostrare l'arricchimento, come riportavano alcuni giornali italiani, è vero o no? Cioè che il fatto che i risparmiatori arrabbiati e incavolati per aver perso soldi in borsa vedano quelli che avremmo chiamato 20 anni fa gli yuppies cinesi qualcosa da additare, per cui si cerchi di avere un atteggiamento un po' più understated, un po' più sommesso, è vero o no? Allora, chi ha un atteggiamento sommesso, chi ha evaso le tasse e chi, o chi si è arricchito. Beh, almeno in Cina ce l'hanno sommesso, da noi neanche quelli. Ecco, ci sono 90 milioni di persone normali che sono state spinte da questa droga della borsa che è cresciuta del 100% in poco tempo, in un anno. Ecco, e dato che il cinese è propenso a scommettere, è uno che scommette qualsiasi cosa, si sono indebitati per... questo è l'inizio della follia, questo è l'inizio di qualunque bolla. E questo è il problema. E il governo dice, io non ho mai incitato, non hanno mai spinto a far questo, lo stanno creando, quello che sta succedendo, andiamo a vedere il fondo. Loro non vogliono, sono intervenuti da... Io sono dell'opinione che interverranno sempre di meno e dal prossimo anno il governo lascerà fluttuare sia la moneta che la borsa. L'atteggiamento di questo governo, che è fatto, ricordo, di quasi tutti economisti, è molto responsabile. Stanno cercando di educare il mercato, quindi se ci sono dei risparmiatori che si sono inguaiati, ci dispiace, ma è un qualcosa che è finita la festa. Sì, si sarebbe detto è il capitalismo, bellezza. In qualche modo riprendo il famoso detto del giornalismo bellezza. Resti con noi Capozzi, perché adesso il meteo e la pubblicità, e poi vorrei capire invece in maniera più dettagliata questa transizione, perché su questa transizione si gioca non solo il futuro della Cina, ma, se permettete, con un po' di provincialismo, anche il futuro di tantissimi gruppi italiani, perché più la Cina diventerà un mercato di consumo di prodotti, più noi potremmo avere un nuovo o incrementare il mercato di sbocco cinese. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Meteo. Focus Economia. minuti, adesso arriviamo anche alla borsa che ha chiuso comunque con un calo dello 0,90%. Dunque, Capozzi, dicevamo, lo scontro però è in atto nel paese. Lei raccontava di un governo che vorrà intervenire sempre meno nell'aiutare i risparmiatori, dicendo avete voluto rischiare in borsa, una borsa che ha fatto il 100% di crescita in un anno, adesso siete rimasti col cerino. Però la resistenza da più parti viene evocata, cioè che ci sia una fetta di economia cinese, soprattutto quella meno, diciamo, meno, non da parte la mezzaluna intorno a Shanghai, diciamo, e costiera, ma la parte più interna, che invece vorrebbe mantenere il vecchio modello di una Cina solo manifatturiera o soprattutto manifatturiera. Lei non lo vede? Ma io vedo invece un'esigenza di mercato interno. Io gli dico che ci sono dei operatori americani che sono venuti a investire qui in Cina nel commercio, hanno fatto un'analisi e hanno visto che gli acquisti online maggiori venivano fatti dalla parte centrale della Cina, cioè chi era più lontano dalla costa, no? Proprio perché c'era il poco accesso ai negozi del lusso, i negozi più importanti che sono tutti quanti verso le grandi città della costa, e hanno investito a Chengdu, hanno investito a Chongqing, nel centro della Cina, e hanno preso un mercato che era lì potenziale, che nessuno curava. C'è una Cina che sta esplodendo, ci sono adesso le proiezioni che sono 250 milioni di persone che sono la classe media, che è quasi equivalente a una classe media, cioè una classe, diciamo, un potere di spesa italiano, diciamo. Fra 5 anni saranno 600 milioni, che supererà praticamente la popolazione europea. La somma di Stati Uniti e Europa, certo. Infatti, quindi è un qualcosa che, infatti quest'anno, se andiamo a vedere gli investimenti, una Cina che sta così male, che ha ricevuto fino al mese scorso 76 miliardi di dollari di investimenti esteri, e arriveranno probabilmente a più o meno, forse saranno un po' di meno l'anno scorso, che sono 320 miliardi, ma comunque sono investimenti che arrivano, perché questo è un paese che non si può ignorare. Beh, anche se nessuno... fosse al 3% di PIL, che è questo fantomatico numero, no? Cioè, c'è comunque una popolazione che mangia, che deve vestirsi. Ma Capozzoli, gli ascoltatori dicono che lei è in versione un po' pompiere, nel senso che getta acqua sul fuoco, per cui secondo lei, al di là della speculazione finanziaria, abbiamo tutti esagerato o minimizza un problema? No, io sto vedendo, no, il problema c'è, io vedo più un problema, è la prima volta che vedo uno scontro al vertice così grosso, è un momento molto particolare. Il governo adesso sta cercando di prendere il più possibile, mette i suoi uomini nell'esercito, questo vuol dire tanto. Ha messo in galera 230.000 funzionari di partito. 230.000? Sì, negli ultimi 2 anni, 230.000. Funzionari di partito. Sto parlando anche delle municipalità, in tutti i settori. Tanto, cioè, so già il messaggio che arriverà adesso, perché sì, no, sull'Italia. Sì, la Cina c'ha città di 25 milioni di abitanti. No, ma certo, capito. Ecco, ha dei numeri enormi. Ma li mette in... perché? Perché finora c'è stata un po' una collusione ai vertici, loro, questo governo che è fatto, ripeto, di persone che hanno sentito l'esigenza di cambiamento, anche perché c'è un disegno dietro che ho avverto un po' così, c'è la voglia di andare verso l'esterno, vogliono entrare anche sui nuovi mercati, non a conquistare, ma come è successo col Giappone negli anni 80, che hanno fatto acquisizioni negli Stati Uniti per uscire dal Giappone, svilupparsi, maturare. Ora il governo favorisce sì. Le aziende che vogliono andare all'estero a investire per internazionalizzarsi, anche per quindi, fare una diciamo, mettiamola così, visto che lei arriva ultimo tra gli interventi che abbiamo avuto questa settimana, se ho ben capito la sua visione da dentro di chi ha portato oltre 600 imprese europee, nella maggior parte italiane ma non solo, a produrre in Cina, è che in realtà sì, un rallentamento ci sia, ma soprattutto c'è uno scontro, quindi in questo non ci siamo sbagliati. Storico, epocale, ai vertici della struttura, diciamo, non dico oligarchica, ma insomma di potere cinese, tra il nuovo premier e il suo tentativo di portare il paese ad essere non solo manifattura, consumi, aiutarlo in una transizione, e chi invece frena per restare nel vecchio, anche perché nel vecchio c'era, come lei ricordava, moltissima, e si stava registrando moltissima corruzione. Nessuna voglia di difendere i risparmiatori. Vedo, lei dice però attenzione a dire che adesso a descrivere la Cina come ferma e come stagnante. In questo ha fatto bene, perché poi il rischio, diciamo, di rendere di sensazionale la notizia e quindi estremizzarla c'è sempre, ed è un'autocritica che faccio. Grazie a Saro Capozzoli, in collegamento con noi da Shanghai. Buonanotte a questo punto. La borsa. -0,90% Milano, -0,17% Parigi, +0,36% -0,17% Francoforte, +0,36% Parigi, +0,50% Londra, -0,20% l'America. Insomma, oggi giornata mista, ma non è che si può sempre ballare come abbiamo fatto lunedì o con i rimbalzi dei giorni successivi. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Deboli, qualche presa di beneficio, questo potrebbe essere il titolo delle borse. Bene i titoli petroliferi, male oggi Ferragamo soprattutto. Sì, per quello che riguarda i titoli petroliferi, oggi c'è stato un forte balzo del prezzo del petrolio, che è tornato ad avvicinarsi a quota $45 al barile, in questo momento è un rialzo del 5,5% e ha trascinato un po' al rialzo tutti i titoli del settore. Fra l'altro Saipem si era già messa in luce ieri grazie a una commessa da oltre 1 miliardo di euro e ha proseguito anche oggi il buon andamento, bene anche appunto Tenaris +2,47% ed Eni +0,49%. Per quello che riguarda invece Ferragamo, il titolo ha pagato un po' le indicazioni date sulla seconda parte dell'anno ieri in occasione della conference call sui conti del primo semestre. I conti sono stati buoni, con una crescita sia dei ricavi che degli utili, però le indicazioni che ha dato sulla seconda parte dell'anno il management sono state molto prudenti, ha sostanzialmente confermato quelle che erano le attese degli analisti e questo fa prevedere un possibile forse rallentamento o comunque una forte prudenza sulla seconda parte dell'anno, e il titolo ha perso il 5,64%. Eh sì, devo dire che è il secondo peggior titolo in assoluto oggi, dopo Chips un titolo che non riesco neanche a pronunciare, che fa il 10,40 CSP Ind Calze, ma che -10,40%. E poi c'è Jeffra -4,50%, il migliore visto che li stavo dando in assoluto è PRL +5,48%, poi Caltagirone Editore +4,81%. Torniamo ai titoli di maggiore capitalizzazione, dicevi bene Saipem, Tenaris, Eterna. Tra chi cede oggi abbiamo visto, al di là diciamo di Ferragamo, un po' debole oggi tutto il gruppo Fiat, Exor, ma anche Fiat Chrysler. Fiat Chrysler -1,30%, Exor -0,90%. Sì, dicevo che abbiamo assistito oggi sui mercati un po' di vendite su quelli che erano i titoli industriali, per cui il settore auto in particolare è andato male nel resto d'Europa, con cali anche attorno a un punto, due punti percentuali, e anche in Italia lo abbiamo visto con Fiat Chrysler che ha ceduto l'1,32%. Tra l'altro c'è questa indiscrezione di mercato che ha iniziato a circolare ieri sul fatto che Marchionne potrebbe andare alla guida operativa anche di Ferrari in vista della quotazione. Si sa da qualche tempo che l'attuale amministratore delegato della Ferrari, Felisa, è in uscita e le ultime indicazioni davano appunto Marchionne come possibile nuovo amministratore delegato anche del marchio del lusso di casa. Per quello che riguarda Exor, che oggi ha ceduto lo 0,93%, in realtà si è mosso abbastanza in linea con il resto del mercato. Oggi sono arrivati i conti della sì, società. 219 milioni l'utile del semestre. Sì, conti, consolidato, conti in forte crescita rispetto ai 57,4 milioni dello scorso anno. Si tratta di un balzo che è dovuto soprattutto alle plusvalenze realizzate da una serie di cessioni di partecipazioni realizzate nel semestre e che in ogni caso danno un'indicazione positiva sull'andamento della holding di Casagnelli. Allora, io, siccome poi ogni tanto mi chiamano gli amministratori delegati dei titoli che citiamo, ma lei ha fatto la battuta, io non ho fatto nessuna battuta su CSP in Calze, è solo che diciamo il modo in cui è presentato il titolo nel listino è difficile da leggere. Ha fatto -10,40%, in realtà è un titolo di un'industria che produce calze, non sto scherzando, ma che è successo, così non lascio nessuno col dubbio. Oggi ha comunicato i dati, anche questo titolo, della prima parte del semestre. Si tratta di una società che forse è conosciuta meglio con alcuni marchi come Oro Blu e San Pellegrino, di calze di Intimo. I dati non sono particolarmente buoni, i ricavi sono caduti del 7,5% nella prima parte dell'anno, la perdita è aumentata arrivando quasi a 3 milioni e anche le prospettive che la società ha fornito non sono particolarmente incoraggianti per la seconda parte dell'anno. Allora, grazie, così abbiamo chiarito, bravissimo, Guido Maurino ha anche preparato su questo. Grazie a te, ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, buon fine settimana, il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Focus Economia. Prossimo anno togliamo Tasi e IMU per tutti, nel senso che non è possibile continuare questo giocattolino dove la tassa sulla casa l'abbiamo messa, tolta. Qualcuno dice, ah, ma se togli la tassa sulla casa sei come Berlusconi. No, Berlusconi è quello che l'ha anche rimessa la tassa sulla casa, votandola insieme a Monti. Non è questo il punto. Una cosa non è se l'ha fatta Tizio o Caio, è se è giusta o non è giusta. Se partiamo dagli 80 euro, cioè dal persone che guadagnano meno, poi interveniamo sull'IRAP costo del lavoro, poi interveniamo sulla casa, ci possiamo poi concentrare nel 2017 sull'IRES, cioè sulla tassa per le imprese, abbassare ancora una volta per il lavoro, per chi lavora, le tasse oggi sono più o meno al 31% la tassazione sulle società, portarle al 24%, più bassa della Spagna, e nel 2018 l'IRPEF. Abbattere le tasse ha un effetto positivo su chi beneficia di questo abbattimento delle tasse, se chi ne beneficia è anche convinto che l'abbattimento delle tasse sia permanente. Ecco perché le tasse si devono abbattere abbassando le spese. Se l'esigenza di finanziamento delle spese diminuisce, allora c'è uno spazio per una riduzione credibile e permanente delle tasse. Poi, tra tutte le tasse che si possono abbattere, quali si sceglie di fare? Come ha ricordato ieri il Presidente del Consiglio, il programma di governo dal 2014 al 2018 prevede tagli di tasse in diverse aree che vanno viste nel loro assieme. C'è quindi una cifra complessiva che si otterrà alla fine del processo, ma c'è anche una sequenza. Quindi, da dove si è cominciato? Si è cominciato con una riduzione delle tasse sui redditi medio-bassi, i famosi 80 euro. Poi si è passati alle tasse sul lavoro e quindi l'IRAP e quindi gli incentivi fiscali all'assunzione con contratti a tempo indeterminato. Perché è chiaro che accrescere l'occupazione, aiutare le imprese ad assumere di più e meglio è fondamentale per il benessere del Paese. Poi che cos'altro c'è? Naturalmente sostegno alle imprese e di nuovo sostegno alle famiglie con le tasse sulla casa. L'idea è quella poi di tornare ad aiutare le imprese e ritornare ad aiutare i redditi più bassi. I have a dream that one day on the red hills of Detroit, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. In rapida sequenza avete ascoltato, diciamo, l'intervento del Presidente del Consiglio da Federlegno Arredo a Pesaro, l'annuncio leveremo nel 2016 Tasi sulla prima casa, IMU sulla prima casa, gli imbullonati, quindi la Tasi sugli imbullonati, che sono i capannoni, ma scritto un ascoltatore, gli imbullonati sono i nostri politici. No, la battuta è bella, no, gli imbullonati sono i capannoni che, su cui si pagano le tasse anche quando sono non operativi, anche quando sono vuoti, e l'IMU agricola. Come ha spiegato Sole 24 Ore, questi interventi valgono circa 5 miliardi di euro e poi c'è tutto il resto del piano. Sempre Sole 24 Ore ha fatto il calcolo che complessivamente al 2018, se sommiamo gli interventi su IRES e IRPEF, si arriva a 45 miliardi. Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, con te vorrei fare un punto a cavallo tra economia e politica, immaginando che lunedì ufficialmente riparta tutta l'attività. In realtà già D'Alema ieri ci ha pensato a mettere un po' di sale così nel PD. Però insomma, qui c'è la legge di stabilità 2016, per cui ci sono 10 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA, più 5 miliardi, da quello che capisco io, per levare l'IMU, come abbiamo appena ricordato, fanno 15 miliardi in più. Poi c'è la riforma del Senato, che non c'entra con l'economia, ma c'entra con la tenuta del governo. La riforma fondamentale della legge delega sulla pubblica amministrazione, e quindi il testo unico sul pubblico impiego. Il tutto, e lo dico, con un'economia che, stando al dato di due settimane fa, non è che stia crescendo secondo l'attesa. Alberto. No, esatto, ci sono una serie di turbolenze che sicuramente non erano previste prima delle ferie, che si stanno addensando come nubi d'autunno su un quadro di macroeconomico che non è affatto stabilizzato o per niente sereno, viste le ambizioni che sono state messe in campo poi con le dichiarazioni e i programmi annunciati nel corso dell'estate. Sarà fondamentale che il governo rimetta mano a un'ampia azione di diplomazia europea, perché da lì una parte dei denari necessari, certo, a coprire i tagli fiscali dovrà venire. Cioè il margine sul 3% famoso, quanto possiamo, esattamente, diciamo, giocare? Come, certo, sappiamo, abbiamo la possibilità di poter insistere per avere un margine dello 0,4% più o meno sul rapporto deficit-PIL, che sono sì, intorno ai 6 miliardi, sì. Poi c'è un altro 0,1 che è frutto della polemica, o meglio della disputa più che accademica, che c'è tra l'Italia e l'Europa sull'output gap, cioè sulla crescita del PIL potenziale, che l'Europa valuta meno di noi, e quello vale più o meno un altro 0,1%, potrebbero essere un altro paio di miliardi. Però stiamo parlando di azioni che ci consentirebbero di raschiare un pochettino il barile del negoziato con l'Europa, ma certo non consentono di far fronte a un'operazione massiccia di riduzione del carico fiscale come è stata promessa. Quindi ci sarà sicuramente una fase complessa di messa a punto tra la congruità delle promesse e l'effettiva disponibilità di risorse da mettere in campo. Sì, anche perché faccio notare, senza polemica con il governo, che però manca l'appello, una stima almeno vaga sui risparmi della famosa spending review. Scusatemi se io sono antico, come dicono i giovani, e torno sui temi canasti promessi, però ricordavo dalla manovra finanziaria anche la spending review, oltre che la lotta all'evasione fiscale, per cui lì, perché se tu fai 6 miliardi, ammettiamo che con l'Europa tu riesca a trattare, arrivare a 6, 7 miliardi, 8 miliardi, te ne mancano ancora 7 l'appello. Esatto, e quelli li devi fare con i tagli, e poi ne devi fare anche di più veramente con i tagli. Ci sono questi 15 cantieri che il nuovo responsabile della spending review, Gutgeld, ha messo in campo, ma di cui si sa poco. E come si sa, è difficile tagliare, perché sulla massa di 800 miliardi di euro di spesa pubblica la parte incomprimibile è quasi più del 90%, quindi gli interventi sono sempre quelli, ai noi, e quindi sono ben noti. Dimmi una cosa, Alberto, visto che tu hai seguito a lungo per i Sole 24 Ore la politica, eri anche responsabile della redazione romana e continui a seguire, non che tu l'abbia seguita nel passato e basta, però come titolo: sarà più difficile per Renzi la riforma del Senato e quindi le tensioni sulla maggioranza sul PD, che è il PD pre-Renzi, diciamo, quello che lui si ritrova in Senato e alla Camera, o sarà più difficile fare quagliare, scusami il termine poco economico, la manovra finanziaria? No, indubbiamente è una domanda intrigante, perché la politica presenterà turbolenze ulteriori, e il Senato è la riforma del Senato, il nuovo assetto istituzionale, è la prima credenziale che l'Italia deve presentare poi agli osservatori internazionali per rendersi credibile come anche soggetto negoziale per le variabili economiche, perché, certo, questa idea di rimettere un po' in ordine l'assetto istituzionale, la forma di Stato e di governo di cui si parla da tanto tempo, era una delle migliori credenziali garanzie esibite a Bruxelles, e sulla base delle quali già ha avuto un po' di benevolenza da parte degli altri partner europei. Se questa cosa dovesse saltare, come ahimè in molti cercano di fare, effettivamente crollerebbe anche il puntello che serve ad aiutare il negoziato economico. Quindi le due cose sono apparentemente lontane, ma molto intrecciate. Grazie, avete già un'idea del titolo di domani? Un po' presto, alle 6. È un po' presto, ma comunque sarà sempre sui mercati, naturalmente. Forse sul primo effetto del QE cinese, visto che Shanghai respira parecchio oggi. Sì, tra ieri e oggi respira parecchio. Grazie ad Alberto Ioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Grazie anche, come ogni venerdì, a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione al programma. Da Sebastiano Berisoni, l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo nella versione classica di Focus Economia, quindi fino alle 18.30 lunedì, dalle 17 in poi.